detto. Cioè, perché prendono la massa bene, prendono. Quindi capo di soccorso, una protezione, cioè non c'è bisogno di mettersi quella cosa. Invece gli altri c'hanno il buco al centro, cioè, e c'hanno la calamita laterale, dai. Invece come c'è la calamita al centro e poi c'è la cosa che copre tutta. Quelle cazzo mi hanno sempre funzionato bene. Hai capito, Pompo? Ma che? Ehi, Antonio, mi sa che Antonello ha mollato un po', Cosa è successo? So se si è spostato un attimo, non lo so, perché ha detto, oh, sta succedendo qualcosa, non so, una cosa del genere. E ha staccato, Ma cappa. Caro, non si riesce a trovare una base magnetica così, perché quelle lì vanno le... mi sono accorto che va molto più bene delle altre. Piccola. Io ce l'ho qua. Capo di stazionare va un bel bene, quanti antenne che ci metto va un bel bene. Però quel là non mi hanno soddisfatto, no? Allora va a fare le fama a sapere cosa devi fare. Devi pigliare cavanni chissà protezione che fa, devi attaccare la guglia, però cosa succede? Che ci entra l'acqua, ci entra quando piove, capito? Tu stai dicendo quella specie di gomma molle molle che tiene dove c'è la calamita? Caffa, io voglio quella invece che c'ha la calamita al centro, hai capito? Io ce ne ho la base magnetica, ce l'ho qua davanti, ho piazzato da 2001, ed è quella che c'ha la calamita rotonda al centro. Madonna, quella di voglio. Una sola ne ho tu, ci ho piazzato la 2001 qua. Caffa, quelle vanno bene. Non ce l'ha al laterale, è vero, ce l'ha al centro. No, è proprio al centro, tu. C'ha il buco centrale, c'ha. No, che non sia aperte, capito? Quando tu ne togli quella protezione che hanno. Ne togli quella protezione che hanno. Vedi la calamita che è tutta laterale, così fatta. E da poi quello buco al centro. Io non voglio quella. Io voglio quella che ha la calamita al centro, e poi c'è tutta la protezione laterale. Ah, no, questa ce l'ha proprio al fianco rotondo, c'è una calamita, sarà di un centimetro, due centimetri di spessore, però è tutta il lato, capito? Prende la circonferenza e i lati, poi c'è il buco al centro, capito? E c'è quella plastichina, quel coperchio in plastica che si mette, capito? Ma tu la porta finestra ce l'hai? Io c'ho la finestra in cui c'è dell'ambierino sopra la finestra, capito? Sopra la finestra? E sopra la finestra c'è l'ambierino, capito? C'è la lamiera lunga, giusto? E a positivo, io la stacco lì e esco una bomboletta, capito? Anzi perché non è HDL, se no te l'avrei fatta sentire con l'antenna. No, qua non arriva. Ora se la piazzo sul tetto spara quella, E l'ho dovuta mettere solo in una maniera, perché se tu la metti diversamente ti dà stazionaria, ti rompe un bel scatole. Io ho dovuta mettere molto inclinata, l'ho dovuta mettere in una certa maniera, bloccata lì e buve, perché altrimenti ti dà stazionaria e ti dà problemi. Beh, in effetti è vero, ma se la metto sul tetto, Antonio, uno stazionario te ne dovrebbe dare, o no? Dovresti farli, ma che, come ti ha detto Gianni, un bel pezzo di cosa, perché deve riflettere un po', perché altrimenti ti dà fastidio, capito? Ci vuole, lo strumento ci vuole per curarla. Un pezzo di lamiera, dai, lamiera, di roba zingata, è così. Non mi ricordo quanto deve essere. Allora sì che devo riflettere, hai capito? Va bene, allora va solo bene in macchina questa e basta, dai. Ma se la metti così, ti metti il capo come deve essere messo, la devi misurare finché non ti fa bene. O tagli il capo, o abbassi l'altra perché ci sono... abbassi il dottino. Perché ci sono le vitine che si mollano alte e basse. Si fa una trazione così e se ci riesce a tararla, guarda, va bene. con gli accorgimenti, guarda, esce a forza, però se non ci riesci un cazzo. Te l'ho spiegato come piazzare la basetta? No, dice che c'è uno strumento. No, la basetta, occhio che vuole piazzata bene, perché è in corso. No, la basetta già è piazzata bene, la basetta. E anche la base magnetica è piazzata bene, con il suo spinotto originale, tutto quanto, c'è la vita centrale, capito? No, quello già è invitato bene, tutto quanto a posto, capito? E vedere se è porta stazionaria, capito? Già, ma dovresti provarlo, ma è il gruppo che non sarà parabola, c'è la base magnetica. Poi per il capo lo stacchi un attimino, ci metti il barilotto, ci metti il PL su, li metti nuovo e provi a ver se ci riesci. Cappa di Rogero, cappa Rogero. Se ci riesci a... però ci vuole uno strumento per essere sicuro, devi essere sicuro che fai, perché te ne puoi finire. Ma mi sa che è più per macchina che per tetto, dai. No, diciamo che è più per camion. Anche la macchina dovrebbe andare bene in macchina, dai. Graffa. Guarda, altro consiglio anche di te, mettere un bel pezzo di sostegno sotto, perché è maledetta quella antenna. È pesante. Se tu rifai il sostegno vero, non ti deve essere fatto. E di fare cose come deve essere fatta dovrebbe andare bene. Tappa di Rogero. Qualche vizio sta chiamando Luigi. Dimmi Luigi. Devi smontare un pannello o di vieto di sosta o di quelli limite di 50, quelli tondi, hai capito? Un pannello di quelli tondi che sono nella strada, nella superstrada. Gli fai un buco a centro e gli metti l'antenna e va bene. Ti sento in mezzo al QRM. Allora, adesso Luigi devi smontare un pannello di fuori dalla strada e ci mette bene così, figa, proprio. Manta un dighetto di sotto o qualcosa di quei pannelli tondi che sono zingati, le fa un buco al centro e ti mette l'antenna. Io c'ho la parabolica. La parabolica, la vedi sulla parabolica. Ho detto Albino, non c'è altra cosa che la parabolica, non so per quale motivo. Albino Radio Baccano mi ha detto prendi una parabolica e mettila sopra il tetto insieme all'antenna, cioè va benissimo. Parogero, già ce l'ho una parabolica vecchia, rotonda, ma quella devo mettere in alto, no, non c'è bisogno, no. E cos'è, perché? Che prende la ruggine, invece quella è la zingata, capito, non reggiliva. Quello sì, quella prende a luce in effetti, hai ragione. Gliela mette sopra, gliela mette, con la maniera. Non so, le fa un buco al centro e ti la pone. Quindi un centello della matrice le fa un buco, la parte di miei c'erano girabile, e l'altra parte metti i blocchi da cemento dentro, così non si muovono. Anche se si può fare. Se rompe le palle e si guarda dentro del razzo. E chi se la mano giusti, GG? Quello è il problema, è troppo le palle, è il terrazzo, ma qua stiamo venendo su a fare il seminante, Ascolta, facciamo così, perché tu mi dai quella e ti prendo un arrivo, almeno non c'è il problema. Come vuoi, tu, non c'è problema. La compro nuova. Non c'è problema, tu, possiamo fare anche così. Si buca sì a tu, non c'è problema, poi già si buca e si buca. Ragazzi, che ho cambiato il microfono in questo della macchina che non usciva di portante. Sta uscendo bene d'inverno che ho messo l'altro microfono, Bene, buona la radio. E la modulazione del microfono, gli ho messo la paillette, quello della paillette, che c'è il capo morbido e lungo, gli ho messo quello lì. Ciao, va benissimo lui. Va bene, ma domani? Quasi a San Giovanni sono, salendo da Ottava. Sta arrivando forte. Perché mi ha detto che non mi ascoltava, Falchetto, allora ho allungato appena appena il braccio. Ascolti, fai che. Ehi, Monte Chiaro, Gigi, Monte Chiaro, vai. Tu mi dici, non mi ascolti, io sono in mezzo a quel REM, io cosa faccio? Allunga per il braccio. No, poco fa ti sentivo mezzo a quel REM, capito? Sto qua. Adesso sta dicendo bene, dai. Riesco a copiarti bene. Sì, ma io già lo so, io se non mi sento. Diciamo che, allora io ti faccio ascoltare subito, hai capito? Qua. Quando vai il vulcano non si fa ascoltare, ma stiamo scherzando. Caparrocero. Caparrocero, domani ce l'ho lasciato a casa l'altro. Domani ce lo portiamo, ce lo piazziamo nuovamente in camion e lo facciamo girare. Comunque c'era Caprido e chiamando sul fondo. Aspetta, non ho sentito. Caprido, ci sei? Ascoltando qui sotto, prova di Paola, già, buongiorno. Ciao, già. Beh, com'è stato questo rientro? Magnifico. Sono benissimo, mi sento molto sollevato, perciò alle 3:30, poi alle 4:30 e ho finito. Ok, vai, ieri notte vi ho fatto due risattine, che era a Torino di Udine, e sentito mai. Azzeccato pure a te. L'ha chiamato Capricorno, poi ci ha chiamato Capri 2. Ma Capricorno che era davvero, si chiama anche Gianni di nome, ma non voleva più. Sì, questo me l'ha preso solo lui da parecchio, questo usando adesso. Gianni Capricorno faceva il carrozziere, me lo ricordo benissimo che c'era. Meccanico è Gianni Capricorno, meccanico di motori. Capricorno lavorava a Prendanite, non era una carrozzeria. Sono andato anche a trovare, siamo conosciuti, se tu stai dicendo un altro, ma quello vecchio lavorava in una carrozzeria. Lo so, ha cambiato perché il buio, 15 anni fa già era venuto a abitare all'altro paese vicino al mio e c'è stato un po' di anni e poi c'era il capito a Sassari. Capagava, va bene. E vabbè, comunque, io me ne sono andato subito perché ho visto che non andava bene a restare, ma sono andato. Sì, ho acceso dopo, non ho sentito che mi stava chiamando, ma è infatti, quando ho visto così anche io ho spento con la gloria, già per modulare oggi, mi darà in vecchiata, ciao Parchetto. Buonasera Capri 2, dai, salutone al 100. Vabbè, dai, bisogna sormolare un po', dai. E io a cielo qua giusto, facciamo questa pausa per vedere come state. Diciamo da molto che non ci sentiamo, è passato prima nel baraccino, queste vacanze che con la famiglia. Un po' che sei tu. E quindi il rientro è stato buono, meglio così, dai. Ma non ho problemi, anzi ero già stufato di stare in vacanza già, perché nel visto la giornata di uscire anche tu, nel visto, come sono rientrato, diciamo di stare fuori. Ma magari intanto tu c'hai anche un riposo tra un'ora e l'altra, è diverso dagli altri quel lavoro lì. Sono rientrato, erano le 2:15, vado alle 3:20, parto, perché i bambini dell'asilo, poi alle 4:20 ho i bambini delle elementari. Già va bene, col megafono non stai uscendo? Come? Col megafono ho detto, non stai uscendo? Dai, faccio un attimo di bianco. Come si chiama il giorno che c'era l'acqua inquinata che diceva non si tocca più di trovare bene, dicendo anche giù la zona nuova e niente, se non ci abbiamo quasi urgenti siamo, non vediamo. Ah, cappagato. E ce l'ha anche a Porto Torres, se te lo ricordi lui, quello che c'è a Porto Torres, piccoletto con 126, che da vai parla. Buongiorno, anche a Capri 2. Grande, bianco da parte mia un attimo. Ehi, ciao Luigi. No, io ho piatto tutta la macchina del comune, tutto il quadro del comune, il bravo, e quello che guadagno già, e in mezz'ora non ho guadagno, il suo guadagno a ora, non lo sto lavorando, ma in mezz'ora posso guadagno già, 20 euro. Certo. Io gli mando 20 euro così. Quando ti rompa la gente, per esempio, bisogna sentire la popolazione, quando c'è l'acqua che manca, che ne chiudiamo, hai capito? Poi l'altro giorno che ti ho detto c'era questa cosa dell'inquinamento dell'acqua, prima abbiamo vietato quell'inquinata, poi il domani l'abbiamo vietato che si poteva usare. Secondo me loro hanno messo troppo cloro, volevano che nel cittadino non la usasse, capito? Te l'ho detto così. Perché non è possibile che in un giorno riescano a battere un'alga. Completamente, ma non ci credo nemmeno. Guarda, io le alghe a me mi si formano nell'acquario, ci metto anche medicinali per abbattere le alghe, ma non ci vuole certo un giorno. Sì, io ho detto, come le fa, ho detto che ieri loro hanno fatto dei controlli o delle analisi dell'acqua, era inquinata, e oggi tu mi rimandi in giro a dire che l'acqua non è più inquinata, poi la gente anche non sapeva se credere al banco che la sopriva che è inquinata, oppure se, capito, se non si capiva già, perché da un giorno all'altro se c'è un inquinamento non lo risali. Secondo me avevano sbagliato mettendo il cloro, l'hanno messo troppo, è sfuggito magari. E allora hanno dato questo bando qua, di modo che la gente non lo bevesse e poi di domani era già a posto, perché basta che si ricicli a posto. Infatti così. Allora ti volevo dire, io sto cercando una scarpetta, già mi avevo da comprare, non è la sua. E a Massimiliano la sta dando. No, per la macchina, 100 watt, 747 CTE. Ma io sto cercando una roba a valvole già. Anche a valvole ne sta dando uno, il BV131. Ma quello ne ha una, e quello è un 100 watt. Non lo so. Non sente, Di più grandi. Non lo so se... Ce l'ha una, ma non lo so se te la dà. Perché io ho una roba grossa. 600, bello. Benissimo. Forse te la dà, secondo quanto gliela paghi, tu. E io te lo dico, è Luca, prendendo mica io. Ma se tanta via ti ho detto, te la regalo, E ok, così passiamo nel canale che dici tu a fare regalosa. A fare vendono anche l'uovo, Basta che vai su internet, ce ne so. A voglia. Fa assorbire un po' di luce. Infatti c'è un assorbimento notevole, quindi 600 c'è con 70. Sì, ma io dico, se ha 600 watt, 1200 kilowatt di consumo, Infatti, stanno dicendo, come mi dice, in che senso già? E ti consuma sempre il doppio di quello che è da di watt. E capretto, più o meno, di uscia. E quale macchina la sta lavando? Non lo so quanto lo sta dando, mi ha accennato che sta dando. Allora, uno che non ti dico manco quale, perché lo deve dare a me. è un base da di quelli antichi, da. Ok, davvero, sono la roba da casa, io. No, no, è un apparato stazione base. Non so se conosci lo Ruiz. Se li conosco tutti, ingegnere, fai i nomi così su. Io sto parlando di scarpetta. Ieri la scarpetta però non lo so da quanto è, non te lo so dire. Comunque io ti dico una cosa, ci sono quelle trasistorizzate che vanno molto bene, a quanto ho letto, vanno molto bene, il consumo è tre volte di meno. Mi piace lavorare, capito? Sempre non fa lavorare, anzi, sono diciamo maleggiato perché non funziona il corpo. Te l'ha detto Luigi, dalla Luigi, ti fa tutto lui. Ti dà la foggia, però, capito, due o tre assieme non li posso mettere a posto. Tu mi hai detto aiutare l'Arbus, capito, lo so quanto ci vuole per la posta. Ma finila, non ci vorranno miliardi, no? Magari 50 euro, 50 euro l'altro, con 100 euro ti fai tutto. Quello cromato mi piace molto, questo di Stormorgan, quello molto bello, però dopo mi ha fatto il nome Luigi di Giancarlo lì a Bernardo, e cazzo dove lo sei? Qua io li voglio tutti a posto, come parole. Ascolta, tu stasera libero, se mi dicevi a me, e poi ci penso io andare a Luigi. Ok, stasera io ti sono a 4:30 già, però tu c'ho l'imbarazzo di quale hai capito. No, lo facciamo con un altro amore, perché l'avevo preparato uno con questo mio zio, cioè l'ho dato a lui veramente, quello che con la capo l'ha fatto, questo qui, che era stato malmesso l'apparecchio, che è venuto più di quanto si dovevamo spendere, è andato anche a finire male. Ma Roberto e Giancarlo sono due tecnici molto bravi, uno per modificare gli apparecchi, l'altro è bravo, li modifica però non li fa molto bene, non gli piacciono molto come li modifica, però per aggiustare le cose è un demonio. Già l'ha detto Gigi, ma ascolta, un 600 watt quando c'è la sapere di scarpe, la scarpe la decina, quanto è preso a sapere? Da 300. Da 600. Da 600 va molto su, da 600 va più di 1000 euro. Va? Sì. Ma io l'ho usata. È usata, non sai mai che cosa trovi, ti danno le valvole magari che sono consumate, va a cambiare le valvole e costano più tutta la scarpetta intera. Trasistorizzata già, come va diventata, trasistorizzata io uso quelle che ce ne sono nei camion. Quelle sono 24. Perché io ho sempre, ho preferito prendere la valvole. Vabbè, questione di cose, sì, a valvole senza ombra di dubbio vanno molto bene, anche gli apparecchi a valvole hanno la voce più calda e tutto qua. Però consumano di brutto perché le valvole scaldano e assorbono meno di tensione. Anche quello è vero, anche quello è vero già. Ok, tra este due mezza già, scendo un attimo giù e poi ci rivediamo, adesso lo devo staccare, perciò anche mezzo perché già vicino a casa, non faccio il video di nuovo. Ci sentiamo più tardi già, se non vogliamo, dimmelo. Ieri, già ci sono. Ah sì, ok, da Massimiliano, vedi cosa mi dice, là. Se vedi cosa mi dice, e poi ti faccio sapere. Ok, ci sentiamo già. Allora, non tutto a dopo. Già, ci sentiamo. Ciao, Parchetto, ciao, io. Adesso mi preparo subito che riprendiamo il trambato, pronto. Papà, sono solo gli altri due. Ciao, Era al telefono, ma tanto non ti potevo rispondere. Stavo chiamando Massimiliano, ma non mi risponde. Ah, non ti sei adesso. E vabbè, io sono quello che subito prendo la palla al bar, che cosa, ma se Massimiliano lo sta vendendo, glielo faccio vendere. Ah, caramba, c'è qualche bel apparecchio? No, non qualche bel apparecchio. Cosa tiro narrando? Un apparecchione da 600 watt. Ah, chiama. Certo. Lo voleva a capi, ma io non ne ho. Ho chiesto. Mi sembra che Massimiliano ha detto che sta prendendo un po' di roba. Mi ha detto compreso una cosa. Ha detto che si tiene solo gli apparecchi che gli servono e buono. Tutto adesso se lo vende. Chiama. Ma che te la diciamo un momento, non credo che abbia contato il 131, no? La 131 non lo vuole nemmeno, perché è una valvola da 100 watt e buisce. Caffa. Si vuole divertire. Non si pensa per del 2001. Caffa, che cervello. Sai cos'è, quando sei in campagna è bello, sai perché? A chi fa un profumo a minuti, io me l'avrei fatto tutto in impianto, mi avrei messo un bel gruppo elettrogeno e andavo via voluto, ma via che ci do, cavolo, aria così morto, Giulia. Ma mica anche il gruppo elettrogeno consuma, non ti credi che non consuma, si assorbimento consuma. Vabbè. Ma cazzo consuma, un litro di benzina fa un'ora di 200. Buone benzina agricola che c'è cosa buona. Ma ero dato il consumo. Ma la Ruzzi lo sai cosa consuma? Fa la proporzione con la Russia per quello di consumo. La dico sarà 2 euro di benzina. O 2 euro di gasolio, se verrà gasolio. 1 euro di gasolio. Cioè, 1 d'accesso o qualcosa, lo sai quanto consuma? Poi non si può tenere così. Ti va di far lì, ti va di arrivare bollette di 6-7 mila euro e manco di una bizza, perché le valvole scaldando consumano il doppio della potenza che hanno, a tutti i bigni. Che affa, ti va di arrivare un sacco di luce, ti va di arrivare. Invece se uno si chiama campagna, se lo organizza bene, si fa una cassetta, eccetera, eccetera, andrà di trattare. Sì, queste belle cosettine, con il moto e vamos, ma non ti costa tanti soldi, cioè se ti pone, se rubi la benzina va lì, o rubi la gasolio che è meglio ancora, con la dinero di gasolio o gasolio, però uno non come consumare, come ne consumare, non ti fa leggere con l'idea. Chiamo, ma dice che Saccasce, ora ti dà il sole. Non so, Ma, ti ho pagato tu paghi 9 euro, anche tu, non è che... Non dovevi tu percorrere, io pago 9 euro.